Che l'università italiana sia in fase di profonda difficoltà non è una novità. Non passa mese senza che qualche ricerca ne confermi l'arretramento in ogni tipo di ranking. Secondo la classifica della rivista specializzata americana Times Higher Education, nel 2011 la prima università italiana per qualità è Trieste, che risulta però al 217° posto mondiale. Rispetto agli altri paesi europei, il tempo per concludere gli studi in Italia è più lungo e l'ingresso nella vita lavorativa più lento. Quasi il 60% dei giovani fra i 15 e i 24 anni in Italia risulta ancora in formazione, rispetto al 53,5% della media dell'Unione Europea, mentre quelli che lavorano sono il 20,5% rispetto al 34,1% della media europea, il 46,2% della Germania e il 47,6% del Regno Unito. I dati più allarmanti riguardano però il rapporto tra università e lavoro. Negli altri paesi europei, all'aumento generale della disoccupazione in questi anni è corrisposto anche l'aumento della capacità di trovare lavoro per i laureati. Nel nostro paese è avvenuto il contrario, come afferma uno studio del Sole 24 Ore di alcuni giorni fa. Lo stesso vale per le retribuzioni dei laureati in Italia, che hanno visto una contrazione fra il 2 e il 6% solo nell'ultimo anno. Lo stipendio di chi ha una laurea triennale ammonta in media a 1.105 euro, mentre quello di chi ha conseguito una laurea specialistica si ferma addirittura a 1.080. Altri paragoni vedono l'Italia perfino fuori classifica. Negli Stati Uniti, per esempio, secondo la lista stilata da careercast.com, la professione di storico si colloca all'ottavo posto nella classifica dei 10 lavori migliori del 2011, in termini di prestigio, salario ed appetibilità, con una retribuzione di circa 48.000 euro l'anno, inimmaginabile in Italia. I problemi dell'università italiana non sono però legati solo agli scarsi investimenti. A determinare il decadimento è anche la cronica arretratezza didattica, soprattutto nei corsi umanistici, che non vengono rinnovati da decenni e che il mercato del lavoro contemporaneo rende inadeguati.